GR24 Sport. Buongiorno da Dario Ricci. L'Inter che crolla a Bergamo con l'Atalanta, la Juventus che pareggia all'Olimpico con la Lazio e si porta a 3 punti dalla capolista. L'ultima giornata del girone d'andata riapre ufficialmente la corsa a scudetto. A Bergamo l'Atalanta batte 3-1 i nerazzurri di Mourinho, che non cerca scuse. Io sono la faccia di questa squadra, la mia squadra ha giocato veramente male. Problema difensivo, problema di distanze fra i giocatori, il blocco non è compatto, l'atteggiamento non è il meglio. L'allenatore sono io, colpevole sono io. La soddisfazione del tecnico atalanta Lantino del Neri. Penso che l'Atalanta abbia vinto perché in campo ha buttato qualcosa di fantastico e chiaro, per vincere queste partite bisogna comunque fare la partita perfetta, sfruttare tutto quello che gli altri concedono e cercare di concedere poco agli avversari. Finisce 1-1 il posticipo tra Lazio e Juventus. Il difensore bianco-nero le grottaglie. Penso che stasera la Juventus ha fatto un'ottima gara. Il secondo tempo abbiamo avuto 2-3 occasioni per poterla vincere. Però dobbiamo accontentarci, oggi andava bene il pari, abbiamo rosicchiato un punto e l'Inter deve stare attento perché noi siamo affamati. Il Napoli cade per 2-1 a Verona col Chievo, al quarto posto sale così il Genoa che vince 2-0 a Lecce. Si è creata questa chimica, questo spirito nello spogliatoio tra i giocatori, dove chiunque gioca lo riesce a fare con grande successo, con grande rendimento. È stata una partita molto importante per noi a dimostrazione di tutto questo. Una prodezza di Baptista nel finale regala alla Roma l'1-0 a Torino contro i Granata. Il giallorosso Spalletti. Aver tirato fuori questi 3 punti, anche se con il colpo del campione, a noi ci sta bene, ci dà felicità, ci dà entusiasmo per andare avanti e costruire ancora di più quello che può essere il nostro immediato futuro. Vincono in trasferta anche Palermo 2-0 alla Sampdoria e Bologna 2-1 al Catania, mentre il Cagliari supera per 2-0 l'Udinese. E ultima giornata del girone d'andata anche per il basket con la capolista Siena che batte Milano e conquista la 15ª vittoria consecutiva. Vittoria anche per Roma, Teramo, Avellino, Biella, Ferrara e Rieti. E buone notizie arrivano dall'NBA per Danilo Gallinari. L'azzurro è tornato in campo dopo l'infortunio alla schiena nella sconfitta dei suoi New York Knicks contro Philadelphia. Per Gallinari 16 minuti di gioco e 6 punti. Sono contento, insomma, dai. Non pensavo sinceramente di giocare così tanti minuti. Anche i miei compagni di squadra mi hanno aiutato, quindi insomma, anche grazie a loro. Per la pallavolo va a Macerata il big match della 15ª giornata della A1. La Lube ha battuto per 3-0 Trento. Cuneo resta capoclassifica. E ora lo sci, azzurri lontani dal podio nelle gare di Coppa del Mondo di ieri. Nello slalom maschile di Wengen vince l'austriaco Pranger, 10° Rocca. Nella discesa libera femminile di Zauksee in Austria, vittoria ex aequo per la svedese Persson e la svizzera Gesen, 15ª Nadia Fanchini. E chiudiamo coi motori, test Ferrari oggi al Mugello con Raikkonen che proverà la nuova F60. E si è concluso a Buenos Aires il Rally Dakar 2009, vittoria del sudafricano De Villiers tra le auto e dello spagnolo Comà tra le moto. E per lo sport è tutto.